Strizzami quanto sai, vedrò il superbo quando sia il mio poter. Sentimi, amico, già destino rapirla, io mentre lo prorco di me, tu con re al bambino, riedi alla reggia e taci. Te lo mi affè, sei certo, se nell'ora l'inganno, or che scoperto,